Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio e buon Ferragosto da Andrea Ferro. Oggi la radio si ascolta soprattutto dalle località di villeggiatura, al mare, ai monti, in campagna. Un momento di relax, contatto diretto con la natura, una natura aggredita nei suoi equilibri dall'inquinamento, dallo sfruttamento scriteriato delle risorse. Non c'è più molto tempo da perdere per invertire la rotta, il pianeta va curato e rispettato partendo dalla nostra quotidianità. Di qui l'esigenza di pratiche sostenibili anche e soprattutto in tema di mobilità e di trasporti, sia di persone che di merci. Insomma, non stiamo andando fuori tema, anzi, proprio questa è la sfida del futuro per l'intero comparto della logistica. Ci sono obiettivi precisi fissati dall'Unione Europea. Significa puntare su comportamenti ed attività che riducano gli impatti negativi sull'ambiente, quindi muovendoci nella direzione dell'efficienza, della riduzione degli sprechi, dello sfruttamento di energie alternative. In questa puntata ferragostana di Hashtag Autotrasporti ci occupiamo quindi di questo, e non è la prima volta, visto che già nei mesi scorsi abbiamo focalizzato il tema della sostenibilità. E alla sostenibilità ambientale dei trasporti il Freight Leaders Council ha dedicato il suo rapporto annuale, il quaderno 25, tanti sono gli anni dalla fondazione di questo organismo, nato come struttura di consulenza e sostegno a favore degli operatori della logistica. Abbiamo intervistato la vicepresidente Clara Ricozzi. Prende le mosse dai risultati dell'ultima conferenza sul clima di Parigi, che ci dice che con il trend attuale, praticamente nel decennio 2020-2030, i trasporti come sistema saranno responsabili del 50% della produzione mondiale di CO2. Quindi bisogna muoversi, e la parte merci rappresenta il 40% di questa quota. Il Freight Leader Council ha riassunto proposte e soluzioni in 6 punti. Alcune riguardano direttamente il mondo dell'autotrasporto. Ci sono alcune proposte, direi anche abbastanza temerarie, come quella del calcolo della CO2 in fattura, ma ci sono altre iniziative alle quali penso che l'autotrasporto, anche attraverso l'albo, potrebbe dare un supporto importante, come quella di supportare per esempio il progetto della rete LNG Italia Freight. Ma lo voglio citare perché nasce addirittura dall'intuizione di un amico che non c'è più e che è stato vicepresidente dell'Albo, e che era Francesco Del Boca, che per primo ha capito l'importanza di questa, della rete di distribuzione di questo carburante appunto bio, e che ha avviato questa iniziativa nella sua Novara praticamente. Infatti l'Interporto di Novara è capofila di questa iniziativa. Poi ci sono altre proposte assolutamente importanti, come quella di dare visibilità allo sforzo delle imprese verso una migliore sostenibilità nel trasporto. Praticamente significa che l'albo potrebbe indicare le certificazioni ambientali dei trasportatori, che non sono obbligatorie, ma danno senz'altro una buona visibilità all'impresa, quindi accanto a compiti di regolarità, di legalità delle imprese, anche compiti che servano a valorizzare e a dare visibilità alle imprese più virtuose sul fronte ambientale. La sostenibilità dei trasporti passa inevitabilmente dall'intermodalità, in particolare gomma-ferro. Si propone nel quaderno di lanciare un piano nazionale per l'intermodalità ferroviaria, e questo è un compito del governo, ma intermodalità non significa nulla se non c'è collaborazione fra modalità, e infatti più correttamente parliamo di comodalità. Quindi penso che anche lì il forte coinvolgimento degli autotrasportatori attraverso il Comitato Centrale dell'Albo sia assolutamente indispensabile. Insomma, diciamo che ci sono più proposte in questa direzione. Abbiamo sentito da Clara Ricozzi il riferimento ai carburanti bio, carburanti virtuosi, di questi e in generale di una mobilità più sostenibile. Abbiamo parlato con il presidente dell'Unione Petrolifera, Claudio Spinaci. Io credo che la vera soluzione sia quella di graduare gli interventi in un periodo che sia medio-lungo, e che quindi la soluzione più economica, meno dannosa dal punto di vista della competizione internazionale, è un bilanciamento dei vari fuel man mano che la tecnologia lo consentirà. Quindi un uso pragmatico delle varie componenti porterà sicuramente a raggiungere gli obiettivi ambientali, ridurre i costi in modo da avere dei prodotti petroliferi per essere competitivi a livello internazionale e averne la quantità necessaria per non fermare il paese. Questo è un tema sul quale c'è molta confusione, no? Purtroppo sì, perché alcune affermazioni definitive che una forma di mobilità alternativa sia la soluzione senza accompagnarla con i tempi necessari affinché diventi la soluzione genera confusione nell'opinione pubblica, che ha la sensazione che si possa uscire dall'era della benzina e del gasolio in pochissimi anni. Probabilmente, come tutte le agenzie internazionali prevedono, parleremo di 2, 3, 4 decenni, se non altro per il rinnovo del parco auto. Noi in Italia oggi abbiamo ancora 10 milioni di auto Euro 0, 1 e 2, che sono auto del 90. Questi sono i tempi di una transizione e quindi noi dovremo riadattare i nostri costi alla riduzione della domanda, ma per sopravvivere altri 30 anni. 16 camion Euro 1 consumano quanto un camion? Quanto meglio emettono come un camion Euro 6. Il che significa che praticamente c'è grande possibilità di ridurre l'impatto ambientale con il rinnovo del parco, questo anche per i veicoli leggeri. Un esempio concreto di come l'efficienza dei trasporti possa conciliarsi con un approccio sistematico più rispettoso dell'ambiente arriva da un'esperienza collegata alla mobilità del cosiddetto ultimo miglio, cioè l'ultimo tratto percorso dalle merci nel loro viaggio più o meno lungo dal luogo di produzione fino alle nostre case, ai negozi, ai supermercati. Sempre più merci vengono incanalate su queste rotte sull'onda dello sviluppo, potremmo dire irrefrenabile, dell'e-commerce. Sempre più furgoni transitano nel cuore delle città per consegnare quanto ordinato o acquistato via web. Per razionalizzare questi transiti, proprio nei giorni scorsi Fedit, l'associazione dei Corrieri Espresso e Lega Autonomie, alla quale fanno riferimento regioni e comuni, hanno siglato un'intesa per favorire comportamenti virtuosi nel segno della sostenibilità economica, sociale e ambientale, affinché, si legge in una nota congiunta, i centri urbani siano allo stesso tempo smart e green. A Torino già da un anno si sta sperimentando con successo un'esperienza pilota. Ci spiega meglio tutto Guglielmo Nardocci, responsabile delle relazioni esterne di Fedit. Si è posto il problema sempre della soluzione dell'annosissimo problema dell'ultimo miglio. In Italia, come sappiamo, c'è una giungla da questo punto di vista, nel senso che ogni amministrazione comunale stabilisce regole diverse di accesso, orari diversi, tariffe che addirittura cambiano in città vicine 10 km, 20 km, ognuna ha la sua, al suo regolamento. Questo ovviamente impedisce un corretto e soprattutto efficiente sistema di consegna delle merci. Quindi allora si è finalmente deciso di mettersi intorno al tavolino per vedere come bisogna fare, premesso che nelle città italiane come quelle europee si produce dal 70 al 75% del PIL globale e quindi è cruciale fare in modo che le consegne nelle città siano efficienti. Si è raggiunto un primo grosso risultato a Torino con la precedente amministrazione, con la quale abbiamo stabilito un sistema premiale, cioè il comune fa entrare i corrieri in qualsiasi ora del giorno e della notte nella città, non gli fa pagare nulla, quindi la totale liberalizzazione, però in cambio chiede che le aziende adottino mezzi a bassissimo impatto ambientale. Con questa intesa l'obiettivo è replicare in altre città quanto avviene già a Torino. Adesso lo stiamo cercando di declinare, perché poi ogni città ha un suo modello di organizzazione, un suo centro storico diverso da quell'altra, esigenze diverse da quell'altra, in altre città italiane, scegliendo città campione. Abbiamo studiato con la Lega delle Autonomie degli Enti Locali un accordo, una convenzione nella quale ci mettiamo insieme con i comuni aderenti per declinare anche in queste città un modello di urban mobility che è efficiente per le imprese e per i consumatori, è pulito per quello che riguarda i problemi ambientali, e più veloce per quello che riguarda, diciamo, il sistema nel suo complesso. In chiusura un paio di flash. La giunta provinciale di Trento ha istituito un fondo per sostenere le piccole imprese di autotrasporto, una categoria particolarmente colpita dagli anni difficili della crisi. Il contributo consiste nella riduzione degli oneri finanziari. E poi ricordo che oggi il divieto di transito per i mezzi pesanti scade alle 22. Nei due prossimi fine settimana di agosto, il sabato, lo stop è dalle 8 alle 16, la domenica dalle 7 alle 22. Questa puntata di Autotrasporti finisce qui. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon Ferragosto. Autotrasporti.